sulle vette della santità, unanimi consensi, l'ascesa verso la perfezione. La santità, cioè il distacco completo da sé e dalle cose che passano, con lo slancio continuo verso le realtà soprannaturali, la santità, così come la si ammira nel curato d'Ars e che è suggellata con la canonizzazione, suppone da parte di Dio doni gratuiti eminenti, ma esige anche dalla creatura privilegiata che ne è il soggetto uno sforzo costante, arduo ed eroico. Per cui, in un senso, la santità come il genio potrebbe definirsi una lunga costanza. È dono gratuito ed è il termine di arrivo di lunghi sacrifici. Deriva dalla benevolenza proveniente da Dio ed è il risultato di una vita umana, la corona ambita di un'opera che è costata molta fatica. Don Vianney, che fu portato verso Dio quasi per istinto fin dalla sua infanzia, non fu un'eccezione a questa legge dello sforzo e della perseveranza. Egli, infatti, non ha sempre navigato a vele gonfie, ma ha dovuto sovente far uso dei remi. Come succede per ogni uomo che compare sulla terra, anch'egli ha dovuto riformare il suo carattere imperfetto, correggerne le tendenze troppo umane e vincere amare ripugnanze. Non gli furono ignote l'impulsività e tantomeno l'aridità e il disgusto dell'anima, al quale era unito qualche volta un abbattimento che rasentava la disperazione. Una sua penitente assidua poteva ben dire: «È cosa bella essere santi, ma quanto è costato al curato d'Ars!» Egli dovette impiegare per molti anni energici sforzi, perché la perfetta rinuncia a se stessi non è un gioco da fanciulli, e se vi arrivò è perché quando i suoi sensi come il suo cuore hanno avuto la loro rivolta, la volontà non ha mai detto «non possum», ma ha ripetuto «omnia possum in eo qui me confortat». Il segreto della sua santità sta tutto qui, una volontà eroica ed un coraggio indomito. Giovanni Maria Vianney fu dapprima un fanciullo pio, un ragazzo, un seminarista, un sacerdote esemplare. Venne poi il giorno, noto solamente a Dio, nel quale fu un santo, un grande santo. Se è concesso di penetrare con ogni rispetto questo mistero, dovremo forse fare ritorno fino a quel giorno in cui cominciò a possedere quella dolcezza ineffabile che rapiva di ammirazione i pellegrini, al giorno cioè nel quale lasciò per sempre ogni desiderio che ancora avesse qualche parvenza di egoismo, perfino quello di riposarsi, sia pure solamente per qualche ora, tra i suoi cari nel paese natio. Al giorno nel quale, guidato da lume superiore più vivo e più continuo, con una compassione ed una misericordia immensa aprì le braccia ai peccatori. Cioè, ci sembra che Don Vianney si sia stabilito sulle altezze della santità verso il 1844 o il 1845. Da allora appare come un essere soprannaturalizzato, che di umano non ha più che il dolore, avendo raggiunto il grado eroico che è il supremo sforzo della natura aiutata dalla grazia. La virtù è veramente in lui come una seconda natura. La sua volontà fattiva e perseverante, tendente verso l'infinito bene, nella marcia costante verso ciò che è meglio, passava dalla perfezione acquistata alla vigilia ad una perfezione ancora più alta, che a lui era promessa dall'aurora del giorno seguente. Così, invano si cercherebbe in lui un istante di assopimento o di abitudine. La sua mente ed il suo cuore erano applicati con attenzione costante a ciascuno dei suoi grandi doveri. Testimonianze di santità dei contemporanei. I contemporanei che hanno avuto la fortuna di avvicinarlo hanno lasciato testimonianze di questo grado di santità, espresse in linguaggio vario, ma tutte rivelanti una profonda simpatia annunciata con emozione viva. Il fedele Oriol, parlando di Don Vianney, ebbe a dire che la prima fama della sua santità fu espressa da persone semplici e pie, ma che più tardi, a questa voce partita da Ars o dalle parrocchie vicine, ha fatto eco anche il coro d'altre voci di persone più ragguardevoli per il loro carattere, la loro posizione e la loro età. Io stesso, aggiunge, fui testimone della stima di cui era circondato Don Vianney, e questa stima crebbe sempre. Nessun grand'uomo è tale per il suo servitore, dice il proverbio, ma Don Vianney visse come in una casa di cristallo nella quale ognuno lo poteva sorvegliare, spiare, criticare. Eppure coloro che hanno avuto maggiore facilità di avvicinarlo, allo stesso modo dei suoi più intimi, furono i primi a parlare della sua santità. Secondo la parola di un prete d'Ars, questi non hanno potuto trovare nella sua condotta neppure l'ombra di un peccato veniale deliberato. Innumerevoli sono le testimonianze dei contemporanei. Raramente vi fu un coro di elogi più bello ed unanime. Mai i discorsi pieni di eloquenza che ogni anno risuonano nella Basilica o sulla Piazza d'Ars avranno un accento di più convincente e impressionante verità. E ascoltiamo dapprima la parola di colui che godette di maggiore intimità con la vita spirituale del santo, Don Beau, parroco di Jassin, che per 13 anni fu il confessore ordinario del santo. Io non so se ci sia stato un giorno solo nel quale abbia messo minor slancio nella vita di santità. Soddisfaceva tutti i doveri della sua missione di sacerdote, di pastore d'anime, con un'ammirabile delicatezza di coscienza, e fino ai suoi ultimi giorni fu perseverante nell'adempimento di tutti i suoi doveri. Ho notato con attenzione il modo col quale faceva il segno della croce, recitava la preghiera prima dei pasti o l'Ave Maria quando suonavano le ore. E devo confessare che il ricordo di ciò che ho osservato in quei momenti mi è causa tuttora di impressione profonda. E con quale angelica pietà recitava il suo ufficio. Non ho parola per esprimere tutto ciò. Io credo che non si possa andare più avanti di così nella pratica delle virtù eroiche. Leggo le vite dei santi, ma io non trovo nulla che sia più elevato di quello che constatai nella vita del curato d'Ars. Era circondato dalla venerazione come un santo, ed io medesimo davanti a lui provavo sentimenti di rispetto e di venerazione in un grado che non so dire. Secondo la mia opinione aveva conservato la grazia del battesimo, e questa grazia la aumentò costantemente con la santità straordinaria della sua vita. Dopo di aver ascoltato la testimonianza del suo confessore, sentiamo cosa dice una persona che fu il braccio destro del santo curato e lo conobbe più da vicino, Caterina Lassagne, che Monsignor di Langaleri, già vescovo di Belley, chiamava una reliquia vivente del curato d'Ars. Questa donna, di meriti insigni, quando nel Petit Mémoire di Don Vianney giunge al capitolo ove parla dei benefici operati da lui nella parrocchia, lascia per un momento il solito riserbo e si esprime così. Quanto è stato buono con noi il Signore per averci dato questo santo, che per nostra somma fortuna fu con noi più di 40 anni. Di lui si può dire che è passato facendo del bene e solamente il giorno del giudizio si vedrà di quali meriti si sia arricchito. E diamo la parola a colui che fu il vescovo del curato d'Ars per 29 anni. L'anno 1839, Don Taillat di Pompellier, dopo un soggiorno di 2 mesi ad Ars, era passato a trovare Monsignor De Vie, perché avendo preso delle note su Don Vianney pensava di pubblicarle. Aveva bisogno del consenso del vescovo di Belley. Questi, approfittando dell'occasione per avere il pensiero del sacerdote su Don Vianney, gli chiese: «Che cosa pensate voi del curato d'Ars?» «Io penso che è un santo». «Ed io pure», aggiunse il vescovo. Certamente, come fa osservare Don Raymond, i giudici migliori dovevano essere i preti che sanno gli obblighi del sacerdozio e conoscono di quale santità debbano risplendere coloro che ne sono insigniti. I sacerdoti, cioè, che sanno le pene, le fatiche, le preoccupazioni inerenti al ministero del parroco e del confessore e che, secondo la loro esperienza, possono misurare a quale alto grado di perfezione eroica si elevarono le virtù, il sacrificio e l'immolazione del curato d'Ars. Don Giuseppe Tocanier, che fu il suo coadiutore per 6 anni, ha scritto in proposito: «Ci si avvicinava a lui come ad una reliquia. Io non ho mai conosciuto un'energia ed una forza di volontà simili alle sue. Non vi era nulla che potesse abbatterlo, né contraddizioni, né infermità, né tentazioni. Costantemente ha dimostrato di avere il medesimo coraggio nella pratica della virtù e nell'abnegazione in favore del prossimo. Questa sua virtù colmava di ammirazione tutti coloro che ne erano testimoni, col fascino di una forza tranquilla ed invincibile che sembrava scaturire da Dio. I pellegrini, anche religiosi degli ordini più austeri, dicevano che, quando si era osservata la sua forza di volontà, non si aveva bisogno di altri argomenti per essere convinti della sua santità. E Don Alfredo Monnin, suo primo biografo, che quando era giovane missionario fece ad Ars 4-5 soggiorni di vari mesi, scrive: «Non osservai mai nulla nella sua vita che non portasse l'impronta della perfezione, e credo che la santità non abbia mai assunto forme più sensibili, più amabili o meravigliose. Non diceva nulla e non faceva nulla che potesse essere detto meglio o fatto meglio». Monsignor Luigi Merbot, cappellano della Visitazione di Gex e sacerdote di grandi virtù, che durante gli anni dei suoi studi in seminario era stato un assiduo penitente di Don Vianney, aggiunge: «Dopo aver lasciato Chalain, rimasi 25 anni senza rivedere il servo di Dio, e quando lo rividi trovai così scolpiti sulla sua fronte i segni della santità che ebbi vergogna di comparire davanti a lui». Don Giovanni Luigi Borion, già parroco di Amberieu en Dombes, e che tanto aveva fatto soffrire Don Vianney, dal quale aveva ricevuto poi un generoso perdono, dichiarò: «Io trovai in lui le virtù che fanno i grandi santi». Anche altri preti che lo hanno conosciuto molto da vicino hanno detto di lui: «Don Vianney era l'immagine vivente della vita soprannaturale e la perfezione che indicava agli altri era la regola costante della sua condotta. La fede fu il movente di tutte le sue azioni e di tutta la vita e formò di lui l'esemplare di ogni virtù e la copia più perfetta del divino modello. Averlo conosciuto può considerarsi una grazia particolare di Dio». Il celebre Don Combalot, che nella sua gioventù era stato discepolo di Lamennais ed uno dei suoi più fervidi ammiratori, venne un giorno di buon mattino a confessarsi da Don Vianney. Uscendo dal confessionale, si gettò nelle braccia di Don Toccanier esclamando: «Dio mio, che uomo avete qui! È mai possibile che io abbia lasciato imbiancare i miei capelli senza venire a trovarlo?» Don Raimond, da parte sua, asserisce: «Due ecclesiastici, fra cui Monsignor Estrade, che era postulatore della causa del venerabile de la Salle, ambedue appartenenti al clero di Roma, vennero ad Ars quando ero là anch'io. Siccome avevo inteso dire che a Roma vi erano due preti che godevano fama di grande santità, chiesi loro se li conoscessero e alla risposta affermativa aggiunsi: «Ebbene, quale differenza trovate fra questi due santi del nostro curato?» Don Vianney ci è causa di una più viva impressione e la sua fisionomia rivela una santità più grande. Né meno entusiastici o meno categorici furono gli elogi dei laici. Ne sentiremo alcuni. Il dottore Giovanni Battista Saunier, che fu chiamato a prestare le sue cure al santo infermo negli ultimi 17 anni della sua vita, dice: «Le mie relazioni col curato erano improntate alla più squisita cordialità ed io trovai in lui il modello perfetto di ogni virtù». Altri operai o benestanti hanno lasciato dichiarazioni uguali. Era sempre ed ovunque, nel vero senso della parola, il sacerdote perfetto, il parroco modello, l'uomo di Dio. Ecclesiastici distinti, uomini di mondo, artisti, ci hanno dichiarato di non avere mai visto nulla di simile allo spettacolo di questo cuore che si consuma, che adora e che geme. Praticò eroicamente non una virtù sola, ma tutte le virtù, non solo in qualche momento, ma per tutta la vita. La lettura della vita dei santi non mi aveva ispirato un'idea così alta della santità come l'insieme della sua condotta. Lo considero come uno dei più grandi santi coi quali Dio ha favorito la sua Chiesa. Se costui non è un santo, di santi non ve ne sono. Il giudizio della folla. La folla dei pellegrini, la grande moltitudine dei quali si è detto che è la voce di Dio, non si è sbagliata nel giudizio espresso su Don Vianney. Appena giunti, essi domandavano: «Dov'è il santo?» E quando l'umile prete appariva fra la folla, si sentiva gridare da più parti: «Il santo, ecco il santo che passa!» E per alcuni bastava averlo visto così appena di sfuggita perché si indirizzassero ai parrocchiani di Ars confermando: Non abbiamo bisogno di osservare altra meraviglia per persuaderci che il vostro curato è un santo. E difatti, come ha detto Monsignor Luchon, un tempo vescovo di Belley e poi cardinale arcivescovo di Reims, se vi fu un uomo che fu canonizzato dalla voce popolare, fu Don Vianney. La sentenza della Chiesa non sarà che la conferma del giudizio del popolo. Un vignaiolo del Mâconnais, al quale fu domandato che cosa avesse visto ad Ars, rispose: «Ho visto Dio in un uomo». Un giovane pellegrino, da parte sua, ebbe a dire: «Io non capisco come si possa ancora offendere il buon Dio quando si ha avuto la fortuna di conoscere questo prete». Un signore di Marsiglia aveva tale idea della santità di Don Vianney che non osava comparire davanti a lui senza aver purificato la coscienza ed aver ricevuto la comunione nella cappella di Nostra Signora della Fourvière. A Lione era corsa la voce nel 1851 che il santo avesse profetizzato l'assassinio del principe presidente in occasione di una rassegna, e presto uno sconosciuto dall'aria poco rassicurante si presentava al sindaco di Ars. Era un commissario di polizia inviato per un'inchiesta sulla pretesa predizione. Il sindaco d'Ars si inquietò e pensò bene di avvertire il santo, che allora si trovava al confessionale. «State tranquillo, non vi è nulla da temere», rispose il santo. Fatto entrare il commissario di polizia nella sagrestia, chiuse la porta. I due vi si intrattennero per 10 minuti, e quando la porta si aprì, si vide uscire il santo con quest'uomo in lacrime. Il sindaco lo raggiunse quando stava per lasciare la chiesa e intese da lui queste parole pronunciate con profonda emozione: «Ma il vostro curato è un uomo meraviglioso, è un santo». Questo commissario di polizia, venuto per un affare sgradevole, aveva pensato forse di poter riferire che il curato d'Ars era un allucinato e un perturbatore, e ritornava invece pieno di ammirazione per la sua virtù. La stessa cosa accadde anche a molti altri che avevano preso la via di Ars senza credere alla santità del curato e pensando: «Un santo, che roba antica, preistorica». Un giovane di Lione scriveva: «Nell'estate del 1841 un mio amico, gravemente ammalato, intese parlare per la prima volta di un curato di campagna rinomato per la sua santità. Le anime pie che gli avevano parlato di lui non mettevano in dubbio i miracoli che aveva già compiuto, e tantomeno quelli che avrebbe fatto ancora, ed il mio amico, volendo andare a vederlo, mi chiese di accompagnarlo. Dapprima, lo confesso, non mi dimostrai molto favorevole a questo viaggio. Avevo fede nella santità cristiana e mantenevo profondo rispetto per queste grandi figure che Dio fa sorgere ogni tanto e che sembrano apparizioni destinate a consolare e a distruggere il mondo. Ma durante i miei studi classici, fatti in epoca materialista, non mi ero liberato dall'orgoglio di una certa cultura intellettuale e mi chiedevo se sarebbe stato possibile identificare per un santo colui che non era separato da me né dal tempo né dalle generazioni, colui il cui merito non avrebbe avuto altro stimatore che la mia povera intelligenza di 25 anni. Per questi motivi rifiutai il viaggio propostomi e mi opposi a tutte le insistenze del mio amico. Ma verso la fine di agosto egli ebbe a dichiararmi che sarebbe partito ugualmente, ed il timore di vederlo allontanarsi solo dalla sua famiglia in un momento in cui la sua salute appariva così compromessa mi decise ad accompagnarlo. Questo giovane, che era partito scettico, vi ritornò entusiasta di tutto quanto aveva veduto ed udito, e facendo allusione alle sue prove ed a quelle dell'amico diceva: «Anche in futuro avremo bisogno di risvegliare i ricordi di Ars e di rappresentarci la santa figura di Don Vianney per sentirci di nuovo incoraggiati e consolati». Si tratta, insomma, di un concerto unanime di lodi che si ripeterono per 20 anni senza una nota discordante. Così Marta di Garez poteva scrivere: «Io non conosco nulla che sia stato detto contro tale reputazione di santità, e mi sono meravigliata del silenzio che hanno conservato anche tutti quei giornali avversi alla religione che avevano mandato ad Ars i loro corrispondenti perché sorvegliassero gli avvenimenti e riferissero. E quando sorsero motteggiatori che posero in ridicolo qualche fatto che riguardava il santo, praticamente essi concorsero ad avvalorarne l'unanime stima, perché si comprendeva subito che era la lotta del vizio e dell'irreligione contro la virtù. Un uomo di Villefranche, uno di quei superuomini dei quali non si è ancora perduta la specie, un giorno lanciava all'indirizzo di un Vianney questa osservazione degna di Homer. Fa pena pensare che il curato d'Ars sia venuto a turbare il secolo XIX. Diciamo noi, voglia Iddio che non vi siano che perturbatori di questo genere. Si può dedurre, senza soverchia fatica, che tutti questi testimoni, diversi per educazione e posizione ma uguali per ammirabile chiaroveggenza, non legano l'idea della santità a ciò che non è che l'accessorio. Distinto vanno in fondo alle cose. Per essi il curato d'Ars è un santo, non perché li ha entusiasmati coi suoi miracoli, non per le sue estasi o per il dono di leggere nei cuori e di squarciare il velo che ci tiene nascosto il futuro, cose tutte che non fanno necessariamente parte della santità, ma perché li ha edificati con l'eroicità delle sue virtù. E tali doni gratuiti Giovanni Maria Vianney non li ha mai né desiderati né chiesti. Ciò che entrò nei suoi desideri fu solamente Dio, Dio adorato ed amato per le sue perfezioni infinite, Dio servito dalle sue creature. E ciò che giunse a possedere in un grado altissimo fu il più perfetto dei doni soprannaturali, la carità. Ora, come è stato detto, la santità è amore.